lavoratore ma anche per il consumatore. Quanto e come la gamification viene usata attualmente nel marketing? Engagement, quindi impegno, può essere utilizzato in tutto il mondo, in qualsiasi settore, in qualsiasi ambito. E le regole del gioco possono essere impiegate in qualsiasi ambito, dal lavoro d'ufficio ad addirittura le regole che utilizziamo per insegnare. Quello che dobbiamo fare è cercare di creare uno strato di gioco nel mondo in cui viviamo. E il mondo è pronto per tutto questo? Io credo assolutamente sì che il mondo sia pronto, perché le nuove generazioni hanno già trascorso più di 10.000 ore giocando, quindi siamo pronti. In uno scenario in cui la rete permea ogni momento della nostra vita in modo sempre più invisibile, anche la televisione, la fruizione dei contenuti televisivi sta cambiando, diventando sempre più interattiva, più social. Dalla relazione sempre più stretta tra TV e social media potranno nascere e si stanno già sviluppando nuove opportunità di relazione tra brand e consumatori, ci ha detto Vittorio Bucci, Managing Director di PhD Italia, che ha condotto un'ampia ricerca sul tema social TV. Una TV che più che evolvendo si sta davvero rivoluzionando grazie all'impatto che i social media nell'era dell'intelligenza collettiva hanno e stanno avendo sulla TV così come noi la conosciamo. Mi hanno colpito molto i numeri di chi guarda la TV e contemporaneamente fa altro, sono numeri veramente importanti. Sono dei numeri davvero importanti, perché nella ricerca che abbiamo fatto a questo proposito abbiamo indagato come la maggior parte degli users, come li chiamiamo noi, che fruiscono quasi on demand, costruendo il proprio palinsesto personalizzato della TV. Quasi il 93% di loro dichiara di fare delle altre attività, di svolgere delle altre attività mentre sta guardando la TV, quindi è una percentuale davvero interessante. Di loro una percentuale che si aggira sul circa il 30% dichiara di utilizzare i social network per confrontarsi, discutere, approfondire ciò che sta guardando di fronte allo schermo. E da qui la caratteristica di influencer, di questi spettatori particolari che iniziano a contare veramente molto. Ecco, quali sono i contenuti televisivi più commentati secondo la vostra indagine? Secondo la nostra indagine si commentano principalmente film, talk show e talent show, quindi l'intrattenimento allo stato puro che supera di gran lunga sia le serie TV che lo sport. Ma la cosa che ci ha fatto riflettere è che c'è un 41% di individui che dichiara di commentare anche la pubblicità. Questo apre uno scenario molto importante per quanto riguarda i brand e la comunicazione di marca. Apre uno scenario che ha un potere dirompente e cambierà davvero la comunicazione negli anni a venire. Gli editori ne hanno già capito l'importanza oggi e quindi stanno cercando di confezionare dei programmi televisivi che siano più aperti all'interazione. Cosa manca oggi? Manca l'opportunità concreta di sfruttare dal punto di vista delle dinamiche di comunicazione per il brand, quindi dinamiche di comunicazione pubblicitaria ovviamente, e di sfruttare al meglio tutto ciò. Ci sono anche dei pericoli in tutto ciò per chi deve comunicare, per i brand? Il pericolo principale è ancora quello di minimizzare i rischi a priori che ci possono essere aprendosi completamente alla rete. Ciò non vuol dire che non bisogna farlo, ma bisogna essere attenti ai valori, all'equity di una marca, ai valori e agli asset che una marca porta con sé, e analizzare profondamente in fase iniziale lo scenario di riferimento, il territorio che si vuole esplorare, per fare in modo che non si incorra in veri e propri epic fail, come banalmente uno degli ultimi successi ad Enel, di cui hanno parlato tanti operatori del settore. Dalla guerriglia art al retail fino alle pulizie domestiche, sapete quali oggetti tecnologici saranno i protagonisti del nostro futuro prossimo venturo? Lo scopriremo tra pochissimo nella seconda parte, in cui daremo spazio anche ad una visione meno tecno entusiastica, perché c'è anche chi dice che per essere chic bisogna essere ungooglable, irreperibili online. Restate con noi. Essere e avere. Io sono di Trebio, relazione umane cyborg. Sono un droide, poco più di un interprete. Entro unità C1, un vero affare. Perché poi deve espormi così per te? Non riuscirò mai a capirlo. Coldrake! In azione! Vediamo se il giocattolo funziona. L'aggiornamento è stato completato. Da Goldrake ad Iron Man, passando per Star Wars e Wall-E, TV e cinema, ma non solo, fumetti, libri, giocattoli, da tempo i robot popolano l'immaginario collettivo. Comunicazione, arte, retail, la robomania contagia molti settori, trasversale per età e passioni, ha trovato il prodotto, l'oggetto simbolo su cui scommettere, i droni. Notizie di questo dicembre: ci stanno investendo Amazon per le consegne, ma anche Google punta sulla robotica. Ne abbiamo parlato con uno dei ricercatori di Future Concept Lab, che ci aiutano a tracciare le nuove tendenze e i fenomeni in evoluzione. Carlo Ricciardi. Noi abbiamo assistito in questi anni ad un passaggio dalla mania per i robot di forme umane, come quelli della metà degli anni 2000, dal 2000 al 2006 circa, i robot androidi proposti da Sony, il famoso Curio, oppure il cagnolino Aibo, che hanno avuto un notevole riscontro. I progetti di questo tipo sono stati sospesi nel 2006. Le nuove evoluzioni vanno verso una tipologia diversa, che è più simile a una estensione delle capacità dell'uomo al di là della forma androide, della forma umana. Parliamo in questo caso di droni. Conosciamo questa parola solo per gli utilizzi militari che sono stati fatti negli ultimi anni. Nella realtà poi le applicazioni civili offrono spunti interessanti anche per utilizzi futuri. C'è stato una mostra a New York organizzata dall'artista Rajiv Basu, che ha proposto a 13 artisti di dipingere e customizzare dei droni e di situarli nel contesto urbano di New York per vedere in futuro quale sarà l'impatto dell'esistenza di questi oggetti volanti all'interno del contesto urbano. Queste immagini sono in mostra al Museo delle Immagini in Movimento di New York e possiamo vedere droni che ricordano John Lennon, situati nella zona in cui lui è stato ucciso, oppure droni che riportano le insegne della Coca-Cola che svolazzano intorno ai Times Square. L'applicazione invece reale che sta per essere testata ed è molto interessante è quella di una società che si chiama Flirty, australiana, è una joint venture di una società di servizi di recapito di libri di testo per studenti universitari, che in collaborazione con l'Università di Sydney ha messo a punto un sistema di consegna porta a porta di libri di testo organizzato con droni. Quindi questo piccolo oggettino volante potrà recapitare a domicilio il libro, abbattendo drammaticamente sia i costi di consegna, si parla di una cifra che scende dai 10 dollari australiani agli 80 centesimi, e soprattutto i tempi di consegna. I droni non hanno problemi nel traffico, insomma. I droni al momento non hanno problemi nel traffico, anche se le stesse società richiedono comunque una regolamentazione, perché a prescindere dalla possibilità di collisioni fra di loro, ovviamente ci sono delle istanze relative sia alla privacy delle persone e degli ambienti che vengono sorvolati da questi oggetti e soprattutto dal pericolo costituito dalla possibile caduta di questi oggetti. Nel retail se ne parla, ci sono anche droni con funzioni da cameriere. Sì, ci sono delle applicazioni sperimentali che sono comunque più progetti di comunicazione che applicazioni effettive. Noi ne abbiamo registrato un paio a Londra, una è della catena Yo Sushi, che è una catena di ristoranti giapponesi, nel quale il vassoio è stato sostituito da un drone che consegna il menù ordinato. Un'altra iniziativa, anche qui a livello di presentazione di progetto, si riferisce a una catena di pizzerie con consegna a domicilio della pizza tramite droni. Quindi c'è una parte che è assolutamente legata allo stupore e alla meraviglia che cerchiamo nelle cose che ci circondano. C'è una parte però che prevede comunque un'applicazione che possa migliorare la vita delle persone. In questo caso io vorrei far riferimento a un progetto che ha conseguito il primo premio al contest del 2013 del Electrolux Design Lab, uno studente colombiano che ha proposto un sistema di pulizia della casa organizzato tramite mini robot volanti che individuano le zone da pulire e passano sulle zone da pulire con una piccola goccia d'acqua o col detergente per poi ritornare alla base. Centinaia di questi robot volanti potranno pulire i nostri ambienti domestici in poco tempo. Quindi uno sciame golf in pratica. Esatto, uno stormo di insettini che va a pulire la nostra casa. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. Era Her, il film di Spike Jones, uscirà in Italia a marzo, ambientato in un futuro non troppo lontano in cui Theodore, scrittore solitario interpretato da Joaquin Phoenix, si innamora della voce sintetica di un sistema operativo di nuova generazione, un sistema creato per andare incontro ad ogni sua necessità. Continuiamo a parlare di scenari futuri e di utilizzo delle nuove tecnologie, dando voce però ad una visione meno entusiastica. Mi piace. Posta commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Taggo una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Siete schiavi degli status aggiornati e del presenzialismo online oppure resistete tenacemente all'era dei social network? Parliamo di critica del web e anonimato digitale, il cosiddetto movimento anti-social che raccoglie sempre più consensi e inizia a fare tendenza. Chi vuole essere chic, sostengono i guru del movimento, deve essere ungooglable, deve sparire cioè da Google, rinnegare Facebook, Twitter, Instagram, per seguire con metodo l'irreperibilità digitale. Un fenomeno ricco di studiosi dei nuovi media e delle loro definizioni, come la psicopatologia dell'online dell'olandese Geert Loving, l'ingenuità della rete di Yevgeny Morozov, la vertigine digitale di Andrew Kinn, vero e proprio guru anti-social network. E anche The Circle, l'ultimo romanzo di Dave Eggers, divide per la sua visione apocalittica e antiutopica del web e dell'industria informatica. Anche in Italia il fenomeno prende piede, tanto che è nato un movimento di critica dei social network che si chiama Slow Communication. Ne abbiamo parlato con il suo fondatore, Andrea Ferrazzi. In realtà è una critica ai social network, ma più in generale è una critica alla tecnologia e allo spazio sempre crescente che sta rivestendo nella vita di ciascuno di noi, una critica in senso costruttivo e non solo in senso negativo, nel senso che non siamo un movimento luddista che critica e attacca ed è contro a prescindere la tecnologia, ma è un movimento che si prefigge lo scopo di un utilizzo consapevole di tutti gli strumenti che ci accompagnano ormai in modo, direi, imprescindibile. Una delle riflessioni che voi stimolate è quella sul valore, presunto valore democratico, che viene universalmente attribuito ai social network. Ecco, fortunatamente le voci critiche iniziano ad aumentare.